zusammen. Anch'io, insomma, molte cose secondo me erano in modo molto chiaro Titti. Riprendo un po' quello che stavano dicendo prima, cioè se la prospettiva è appunto fare un'analisi comunque del contesto e del punto in cui siamo, in una prospettiva anche europea e globale, no? Quindi capire dove si colloca il movimento LGBTQ italiano in questo momento. Questa mattina, insomma, nella prima parte di questa giornata, in cui proprio non c'ero, mi sembra che sia emersa molte volte questa questione di collocazione, di costruzione di un'identità in qualche modo che non può porsi al di fuori dei dispositivi di potere, cioè appunto c'è un immaginario che produce la normatività eterosessuale, ma produce anche in qualche modo include o tendenzialmente rappresenta anche le soggettività minoritarie, e con questo comunque facciamo i conti. Quindi la cosa che mi è sembrata interessante in questi ultimi anni e il tentativo che noi abbiamo fatto è stato quello di più che analizzare le forme dell'esclusione delle persone LGBT, cioè di rappresentarci come esclusi o portatori di diritti negati, leggere quali sono le forme di iperinclusione e di inclusione, di leggibilità e di inclusione del discorso pubblico delle soggettività LGBT. Questo mi sembra interessante proprio perché ci permette di cogliere tutta una serie di manovre, di rapporti di potere che consentono al discorso egemone di strumentalizzare le nostre soggettività o comunque di inglobarle e in qualche modo depotenziarle. In questo senso mi sembra di poter aggiungere al discorso di Titti il tentativo che abbiamo fatto di leggere come tutto un dispositivo securitario ha cercato, sta cercando di interpellare le soggettività LGBT e di utilizzarle in una funzione razzista o in qualche modo emergenziale o per altri fini, in ogni caso, che non sono ovviamente quelli che sono le nostre lotte di liberazione. Parlo di dispositivo securitario, quindi di un ordine discorsivo, ma anche che si concretizza poi in provvedimenti legislativi, pacchetti di sicurezza, pratiche di gestione del territorio, eccetera. Quindi non parlo solo di una narrazione, ma di una narrazione, cioè di un dispositivo, quindi di un discorso più delle forme di gestione o delle tecniche di gestione delle soggettività. Mi è sembrato, insomma, l'esempio che ha fatto stamattina ovviamente l'Elena era chiarissimo, no? Cioè ce lo siamo detti tante volte, comunque è stato molto più evidente con l'emergenza stupri, ad esempio, e con il tentativo di utilizzare e strumentalizzare la violenza contro le donne in chiave razzista. È stato proprio chiaro il tentativo di strumentalizzazione, come è stata chiara anche la capacità del movimento femminista e lesbico di sottrarsi a questa cosa, di respingerla. Il tentativo rispetto all'ambito LGBT è stato più cioè meno chiaro, meno evidente, meno lampante, sia nella sua gestione da parte del potere, ma anche nella capacità di reazione e di analisi. Però io penso che ci siamo ancora dentro, quindi forse questo dovrebbe essere uno dei punti della nostra analisi. Quanto ad esempio tutto il discorso emergenza omofobia ha prodotto una regolazione biopolitica del movimento, per cui adesso noi non parliamo più come parlavamo un paio d'anni fa, no? Di tutta una serie di diritti, ma siamo negli ultimi 6, 7, 8 mesi praticamente, ringraziamo Alemanno che non ci spazza via, ringraziamo la Gelmini che ci dà 2 soldi, ci manda contro la violenza, ringraziamo stiamo a inseguire le aperture delle destre, no? Cioè, inseguire le aperture perché siamo già collocati in una prospettiva di autovittimizzazione in cui abbiamo interiorizzato questa cosa, e a questo punto ci sembra già molto che ci consentano di circolare, di sopravvivere. Cioè il livello di regolazione che produce tutto questo meccanismo, che è creare un'emergenza, costruirti come vittima di violenza, produrre un discorso sulla violenza generico, tra l'altro, che non parla neanche di violenza omofobica, su cui poi si innestano la campagna contro la violenza, la settimana contro la violenza nelle scuole, in un modo sempre ambiguo, no? Per cui la puoi declinare come contro la violenza contro le soggettività minoritarie, ma anche la violenza in generale, cioè anche la violenza che gli studenti ad esempio attuano nelle strade è da condannare, no? Perché siamo contro la violenza, ovviamente. Questa capacità del discorso securitario di invertire i ruoli e quindi paradossalmente di poi porre diciamo, il soggetto dominante in una posizione di quasi vittima, no? Questo è molto evidente rispetto agli stranieri, diciamo così, no? Che noi ci percepiamo come minacciati da una presenza di stranieri che invadono chi? Invadono noi che siamo a casa nostra. Questo è il discorso razzista che fanno la Lega, che fanno le destre, eccetera. Quanto invece appunto il tentativo è anche di utilizzare le soggettività LGBT dentro questa costruzione. E questo secondo me in futuro si ripresenterà, cioè è già qui e sarà probabilmente sempre più accentuato questo tentativo. La nostra capacità di sottrarci a questo io non lo so quanto sia diciamo diffusa nella comunità LGBTQ ad esempio. È per questo che ritengo fondamentale cominciare a mettere a fuoco una serie di categorie sull'intreccio tra sessualità, razzismo, processi appunto di naturalizzazione da una parte delle sessualità e dall'altra delle identità culturali, ad esempio, no? Cioè, quindi tutto un ambito di analisi che ci ricollega, tra l'altro, tutto sommato, a un dibattito molto più ampio che nel momento queer globale si fa da molto tempo e che pochissimo passa invece in Italia, un po' perché fino adesso noi siamo anche un po' in una specie di cappa di arretratezza, per cui tutta una serie di contraddizioni non emergono con evidenza. Altre questioni che sono emerse, sì, anche il discorso che diceva Tiki prima su il focus sui generi, anche queste giornate si chiamano varianti di genere, cioè se, da un punto di vista più generale, abbiamo assunto il fatto che tutta una serie di soggettività minoritarie hanno prodotto altri generi, c'è stata una moltiplicazione di generi, però abbiamo parlato anche molto di quanto questi generi si pongono in forme inedite come normativi, cioè non abbiamo parlato altro per ore di quanto c'è un modello di lesbica normativo, di quanto c'è un modello di trans normativo, per cui noi stessi non riusciamo a uscire da questo circuito di inclusione o esclusione di identità fissa che ci siamo autoprodotti in qualche modo. È molto, anche qui la percezione comincia a essere diffusa, che rifocalizzare il discorso sulle sessualità, anziché sui generi, possa essere molto più produttivo, proprio perché le sessualità di per sé sono molteplici, anche all'interno della stessa persona, le pratiche, i desideri, sono qualcosa di molto più fluido, in qualche modo, molto meno, diciamo anche, imposto dall'esterno, perché sostanzialmente le identificazioni di genere sono qualcosa che appunto fino dalla nascita o prima vengono, diciamo, costruite, oppure arriviamo a costruirci la nostra e ovviamente riconosciamo il fatto che tutta una serie di percorsi di autodeterminazione del proprio genere sono ormai in parte accettati, socialmente accettati, ancora e ancora no, altri non sono ancora accettati, quindi dobbiamo andare avanti anche da questo punto di vista. Il discorso delle sessualità è un discorso più trasversale, a mio parere anche più interessante, e mi interessa molto di più che costruire identità gay in questo momento, capire come lavorare in modo non normativo sulle sessualità, no? E questo potrebbe essere uno spunto di lavoro e anche di riflessione, nel senso che altrimenti il gioco del definirmi e differenziarmi diventa anche noioso, nel senso che poi a un certo punto anche il dibattito di oggi, a un certo punto, cioè, è caduto sul fatto che non se ne può più di chiedersi se io sono donna, se tu sei donna, se le altre donne mi considerano abbastanza donna, mi considerano più uomo, eccetera, eccetera. Cioè, uscire dalla gabbia, diciamo, della moltiplicazione dei generi, che molto spesso non mettono in discussione il discorso falocentrico centrale, cioè questa moltiplicazione di generi ruotano continuamente comunque attorno al falo, non lo destituiscono. Provare a scardinare questo, e quindi non produrre normatività, ma produrre moltiplicazione di sessualità, potrebbe essere un riposizionamento più produttivo per le nostre lotte, in qualche modo, no? Forse su questo sono andato anche fuori il tema. E per non andare ulteriormente fuori, potrei anche fermarmi qui. Quindi, sintetizzando il mio ragionamento, è ragioniamo quanto diciamo la dinamica emergenziale securitaria ci ha fatti arretrare e ci ha spinti in qualche modo a porci in questa dimensione di vittime. Ritroviamo anche in un contesto, come dicevamo prima, caratterizzato da lotte sociali emergenti, la capacità di aprire conflittualità reali, cioè di uscire da questa prospettiva in cui aspettiamo che l'Europa o che il governo, qualunque che sia, o in qualche modo proceda in un meccanismo automatico di allargamento dei diritti. Penso che sia una cosa che questa soggettività in lotta, a partire dagli operai della FIOM, gli studenti, i precari, i migranti sulle gru, ci stanno insegnando, è che non ci sono diritti acquisiti, cioè non c'è neanche una prospettiva di futuro in cambio di un disciplinamento o di una normalizzazione, cioè non c'è nulla. Cioè, solo il movimento LGBT in questo paese crede ancora che ci sarà un futuro radioso di inclusione nei diritti, cioè che ci verranno dati, regalati, come una specie di progressismo, no, di progressiva inclusione. Non è così, non sarà così. Cioè, ci verrà tolto anche quello che abbiamo. Ci stanno togliendo anche i diritti come lavoratori, come in qualsiasi dimensione sociale, economica, che abbiamo già acquisiti, quindi non diamo più per scontati neanche quelli. Ecco, forse questa dimensione ci manca. Anche lavorare su una manifestazione all'anno in cui per forza dobbiamo parlare lì e concentrare tutto lì, è una cosa che a me la breccia ha aiutato molto, finché ha funzionato in qualche modo, il fatto di avere la possibilità mobilitarti, di avere delle pratiche, cioè di rompere questo meccanismo continuo di costruzione di un movimento che per forza deve essere unitario, che per forza deve tendere all'antidiscriminazione e all'integrazione. Io e alla rispettabilità sociale, come suggerisci, penso che dobbiamo riuscire a costruire dei luoghi, degli ambiti di relazione, di politica, in cui non necessariamente produciamo un soggetto unitario, non necessariamente dobbiamo appunto mettere in discussione i diversi posizionamenti, le diverse modalità di essere gay, lesbica, trans, intersex, queer e quant'altro, ma ci riconosciamo le nostre molteplicità, le nostre anche trasformazioni, no? E questo in questo momento manca, e mi fa piacere però che si creino questi luoghi in cui si cerca quantomeno di tendere verso questa direzione. Altre